il tuo sguardo si volge a noi. Ragazzi diversi per storia ed età. L'amore al Signore ci accomuna già. Vedrai che frutti produrrà. Come le stelle nel cielo, grazie a te. Il suo sguardo su di noi per farci testimoni suoi, lasciando tutto per seguire quel sogno tra milioni di giovani, volte e cortili. Con Don Bosco al nostro fianco saremo uomini vivi. Con lo sguardo di Maria che ci avvolge nel suo manto, lei ci darà la forza per cambiare il mondo. Come stella nel cielo noi siamo pronti a brillare, pronti ad amare, pronti a cambiare, con la semplicità e per l'eternità. Don Bosco, Don Bosco è qua. E adesso siamo come Don Bosco qui, correndo verso la santità, andando veloce per donare il nostro tempo, che il Signore ci dà. Don Bosco è qua. Don Bosco è qua.